Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Quello che oggi vi raccontiamo non esiste, almeno ufficialmente. Non è il frutto di un'invenzione letteraria, una trama di spionaggio. È la storia dei rapporti tra servizi segreti americani e italiani nel nostro paese. Durante la Seconda Guerra Mondiale è attivo anche in Italia l'OSS, Office of Strategic Services, diretto dal generale William Donovan. Gli agenti dell'OSS sono specializzati in operazioni coperte, tengono contatti con i capi della resistenza nel nord Italia, vengono inviati dietro le linee nemiche, nazisti in ritirata e repubblichini di Salò. OSS è un servizio segreto strategico e di azione. Ha impiegato uomini esperti in scienze sociali, come Herbert Marcuse o Margaret Mead. Peter Tompkins è un agente dell'OSS che lavora nel nostro paese. Lui è testimone diretto di ciò che accade in Italia tra il 1944 e il 1948, quando il mondo è diviso in due, guidato dalle due superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica. Si vedeva che doveva venire una forza per opporsi al comunismo in Italia e a un movimento sovietico, a un certo punto. Questi già preparavano la guerra nel 44-45 e questo fu il ruolo di Angleton. Smantellato l'OSS dopo il secondo conflitto mondiale, i servizi segreti americani si organizzano dietro ad una sigla famosa, attiva ancora oggi. CIA, Central Intelligence Agency, è l'agenzia di spionaggio degli Stati Uniti d'America, responsabile dell'analisi delle informazioni sui governi stranieri, sulle società, sugli individui e sulla segnalazione di tali informazioni ai vari rami del governo degli Stati Uniti. Dispone inoltre di un ampio apparato militare segreto, che durante la Guerra Fredda era responsabile di diverse campagne clandestine contro i governi stranieri dei paesi nemici. La sede centrale si trova a Langley, in Virginia, vicino al fiume Potomac, e a Washington. Intanto anche i servizi segreti italiani si organizzano nel dopoguerra. I servizi segreti dell'Italia Democratica nascono il 1 settembre 1949 sulle ceneri del vecchio SIM, il servizio di informazione militare nato durante il regime fascista. Una circolare firmata dall'allora ministro della difesa, Randolfo Pacciardi, istituisce il SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate. Il suo primo direttore è il generale di brigata Giovanni Carlo Del Re, che opera sotto la supervisione dell'emissario della CIA in Italia, Carmel Offi. Del Re viene sostituito nel 1951 dal generale Umberto Broccoli. Nel 1953 giunge al vertice del SIFAR il generale Ettore Musco. I rapporti tra servizi segreti americani e italiani si consolidano proprio nel dopoguerra. I servizi segreti americani, prima OSS, poi CIA, cercano di contenere l'espansione del comunismo in Europa dopo il conflitto. Tutto accade mentre cresce il consenso del Partito Comunista Italiano, PCI, e del Partito Comunista Francese, PSF. Nel nostro paese, i servizi americani, in collaborazione con l'intelligence italiana, intervengono in modo diretto con operazioni coperte durante le elezioni del 1948 che celebrano la vittoria della Democrazia Cristiana e la sconfitta del Fronte Popolare, formato da comunisti e socialisti. E alcuni storici sostengono che le prime operazioni coperte in Italia avvengono proprio in quegli anni. Nicola Tranfaglia, scrittore e docente universitario. Gli storici hanno sempre parlato di inizio della Guerra Fredda come determinata dal discorso di Churchill del 1946 e dal discorso di Truman del 1947. Quello che sappiamo oggi fa necessariamente retrodatare l'organizzazione

che fu voluta da Taviani, da Moro, da Martino, tanto che la base di Capo Marrangiu, Polline, che era non solo la scuola di addestramento dei volontari di Stay Behind, ma era anche il quartier generale di Stay Behind in Italia, fu comprata con i denari dati ai cittadini americani e fu comprata facendolo acquistare pezzo a pezzo alle mogli, alle madri, gli ufficiali, perché non si capisse a che cosa serviva. L'organizzazione copriva l'Italia, la Francia, il Regno Unito, il Benelux, la Norvegia, la Germania. Anche i vertici dell'allora Partito Comunista Italiano, PC, erano a conoscenza dell'esistenza della rete Stay Behind, come ricorda Francesco Cossiga. Anzitutto io ho sempre una grossa meraviglia di come si sia potuta mantenere segreta in Italia un'organizzazione per 50 anni. Questo è un mistero assoluto. I quadri più alti del vecchio PC lo sapevano, perché Taviani l'ha scritto anche nelle memorie, informò Longo. La cosa bella o brutta è che io, essendo capo dello Stato, c'entrai dentro, ma io ebbi in Stay Behind un ruolo secondario, anche se dalla mia appartenenza a Stay Behind deriva la mia nomina con la legge Marconi, ufficiale di Marina, iscritto addirittura nei ruoli degli incursori, perché a un certo punto, per darmi una pezza giustificativa, mi nominarono ufficiale. Insomma, questa è la realtà. Alla fine, nel 1990, la rete Stay Behind sarà definitivamente sciolta. I suoi vertici verranno processati e poi assolti, ma c'è chi sostiene l'esistenza di una rete parallela, coperta e illegale, che operava in Italia negli anni 60 e 70. È Aldo Giannulli, storico e saggista. Abbiamo molti elementi che ci lasciano pensare che accanto alla Stay Behind ufficiale vi fosse una Stay Behind ufficiosa, della quale la stessa Gladio non era a conoscenza. La mia impressione è che altre fossero le organizzazioni compromesse nella strategia della tensione e nell'attuazione della limitazione di sovranità del nostro paese, e che probabilmente Gladio ha avuto una funzione di parafulmine per distrarre l'attenzione da queste altre organizzazioni. Tra poco, dopo la pausa, torna il racconto del giallo e nero sulla rete CIA in Italia. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Siamo nel 1969, le bombe sui treni, gli ordini nelle banche. Nell'aprile e nell'agosto 1969 ordigni vengono piazzati alla Fiera di Milano sopra treni di lunga percorrenza. Ci sono feriti, ma nessun morto. La tensione nel paese è altissima. Il 12 dicembre 1969 esplode una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. 17 morti e 88 feriti. Un'altra viene collocata nella sede della Banca Commerciale. Possiede le stesse caratteristiche della prima, ma non scoppia. Altri ordigni vengono piazzati nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro a Roma. 13 feriti. Bombe di elevata potenza colpiscono l'altare della patria e l'ingresso del Museo del Risorgimento a Roma. 4 feriti. Le inchieste della magistratura stabiliscono l'area di provenienza, la destra eversiva, il gruppo responsabile di quegli attentati, cioè Ordine Nuovo, le coperture di uomini dei servizi segreti italiani e stranieri. I tribunali nel corso del tempo assolveranno tutti gli imputati, ma una traccia è rimasta nella lunga istruttoria sulle bombe del 69. Guido Salvini, giudice delle indagini preliminari di Milano. Effettivamente dalle istruttorie sono emersi non solo i nomi dei probabili autori materiali degli attentati, che sarebbero appunto militanti di Ordine Nuovo, ma sono emersi i nomi delle entità che hanno consentito che gli autori degli attentati non fossero scoperti ed anzi, quando possibile, fossero soltate alle magistratura. E quindi il SID, l'ufficio affari riservati, che invece si occupò di questi attentati prima che avvenissero, e cioè preparando la pista anarchica sulla quale vennero condotti i magistrati che dovevano indagare, ed infine, come terza entità, i servizi di sicurezza interni alle basi NATO di stanza in Veneto, i quali tramite personaggi come Carlo Di Giglio, che avevano un doppio ruolo sia di militanti ordinovisti che di fiduciari e informatori della rete americana, addestravano gli ordinovisti a preparare gli ordini e contemporaneamente riferivano alle basi americane. Secondo il giudice di Venezia, Mastelloni, i servizi segreti americani hanno avuto un ruolo anche nella cosiddetta strategia della tensione in Italia. La strategia della tensione non è solo lo stragismo, è una sommatoria anche di carattere culturale o sottoculturale, una sommatoria di segreto militare, di piani operativi, di collegamenti con ambienti eversivi che, in cui è difficile districarsi. La strategia della tensione, secondo me, non è caratterizzata soltanto dalle stragi, perché noi possiamo avere anche una struttura, diciamo, operativa con funzioni di propaganda armata che a un certo punto prende la mano e agisce in maniera autonoma. E siamo all'ultima traccia, quella contemporanea. 17 febbraio 2003. Abu Omar è l'imam di Milano. Abu Omar cammina con passo deciso sul marciapiede di via Guerzoni, a Milano. Agenti della CIA, il servizio segreto americano in trasferta in Italia, e del SISMI, lo stanno seguendo da alcuni minuti. Gli uomini dei servizi sono nascosti dentro quattro auto noleggiate a Milano. Intorno alle 12.25, un furgone bianco si ferma in via Guerzoni. Si accosta al marciapiede. La scena è fulminea. Due agenti caricano a forza Abu Omar sulla vettura e lo trasportano dopo 5 ore di tragitto nella base americana di Aviano. Dopo un sommario interrogatorio, l'imam viene caricato su un aereo con le insegne statunitensi e successivamente, con un secondo volo, ad Alessandria d'Egitto. E alla fine della nostra storia, Cristina Carpinelli ci racconta l'ultima impronta che ha lasciato la rete dei servizi segreti americani in Europa. Quella scia dei voli aerei della CIA. Ce que je dois dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de preuve au sens judiciaire de l'existence de pareil centre de détention ou que cette existence de centre de détention était connue. Ciò che devo dire oggi è che non ci sono prove sufficienti dell'esistenza di centri di detenzione europei o che l'esistenza di questi centri fosse nota alle autorità locali. Ma devo aggiungere e ammettere che le fonti che ne fanno menzione sono multiple, affidabili e vi assicuro molto ben informate. Questo un estratto dell'intervento di Dick Marty, senatore svizzero, ex magistrato, che oggi ha il compito di indagare per il Consiglio europeo su possibili violazioni dei diritti umani da parte della CIA. Il caso esplose a livello europeo il 6 marzo 2005, quando il New York Times denunciò l'amministrazione Bush di aver dato ai servizi segreti il potere di trasferire illegalmente persone sospettate di terrorismo senza dover chiedere un'autorizzazione preventiva. Una prima conferma arrivò solo 3 mesi dopo dall'Italia con l'inchiesta relativa al rapimento a Milano dell'egiziano Abu Omar. Ma è solo a novembre che il caso assume contorni inquietanti quando un altro quotidiano statunitense, il Washington Post, accusò la CIA di aver nascosto e interrogato detenuti di Al-Qaeda in prigioni segrete in Polonia e Romania. Il Consiglio d'Europa, organismo indipendente che raggruppa 46 nazioni, nominò allora Dick Marty, senatore svizzero, già pubblico ministero, a capo dell'inchiesta sulla presunta violazione dei diritti umani. Il 13 dicembre Marty confermò che un'analisi preliminare della vicenda rafforza i sospetti iniziali. Si arriva così al 24 gennaio, quando il parlamentare elvetico presenta un primo rapporto. È altamente improbabile, dice, che i governi europei non fossero a conoscenza del rapimento e delle torture di un centinaio di sospetti terroristi. Sulla presenza di carceri in Romania o Polonia, però, nessuna prova certa. Marti accusa anche l'Italia di un atteggiamento poco trasparente nel caso di Abu Omar, chiedendosi come sia possibile che il nostro governo fosse all'oscuro della presenza di 25 agenti CIA. Poi, a sorpresa, la svolta. È lo stesso presidente Bush ad ammettere, a settembre del 2006, l'esistenza di carceri segrete usate dagli agenti americani per torturare e detenere presunti terroristi. Un'ammissione definita da molti approssimativa e generica, ma che resta comunque un'ammissione esplosiva. Così forte da creare imbarazzo nella Commissione europea. Bush dovrà indicare ora tutti i paesi coinvolti, tutte le nazioni europee che hanno ospitato carceri segrete. La Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo non ha poteri giudiziari, ma potrebbe chiedere, nella relazione conclusiva delle sue indagini prevista per il prossimo gennaio, di applicare le procedure previste dagli articoli 6 e 7 del Trattato europeo contro i paesi membri eventualmente accusati di aver violato i diritti fondamentali dei residenti sul proprio territorio. Questo prevede anche la possibilità per il Consiglio europeo di sospendere uno Stato membro dall'esercizio di alcuni dei suoi diritti fondamentali, incluso quello del voto. La faccenda è dunque delicata e rischia di farsi molto calda da qui a gennaio, quando si dovranno tirare le somme. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.